qualcosa di straordinario. Shibusa Shirasu, ho detto bene? Chi ma sono? Sì, sì, ho detto benissimo. Un'orchestra giapponese che è già venuta in Italia, lo scorso anno è venuta in esclusiva per il Festival Jazz di Torino. Qualcuno tra i più tenaci ascoltatori di Radio 3 ricorderà una diretta che facemmo un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, da Sant'Anna Resi, proprio con questa banda sconclusionata, ma ai quanto disciplinata contemporaneamente, di musicisti giapponesi, un'orchestra, ma insomma racconteremo un po' di cose su di loro, perché vale la pena ascoltarlo e soprattutto è un gran bel divertimento. Sì. Nella line-up della Shibusa Shirasu figurano quattro danzatori Buto, un altro paio di danzatori, proiezioni video, pittori, ma performer. Infatti noi, allora, per dirla semplicemente, sulla pagina Facebook di Battiti abbiamo postato un breve video girato proprio in occasione del concerto di Torino, per cui chi ha voglia può andare là per darvi appunto un po' un'idea. Allora, sì, intanto immaginate un gran nugolo di musicisti, tutti molto raccolti tra di loro, un direttore burbo, eroe e sconsiderato, che dà perennemente le spalle al pubblico, seduto su una sedia impartisce ordini, poi appunto un danzatore Buto, poi in contemporanea ci sono le proiezioni l'altra sera, o meglio nel caso del concerto di Torino, riguardavano dei loro viaggi, delle loro tournée, poi ci sono delle ragazze con strani oggetti, in quel caso erano delle banane gigantesche che manovravano come se fossero delle hostess che impartiscono le segnalazioni per in caso di uscita di emergenza. Poi c'era una sorta di ballerina vestita da abanera e insomma tutto questo, però tutto fatto con una, e un'altra cantante invece con un bel vestito nero quasi così, con un'immagine quasi neoespressionista, tutto fatto però con una serietà sconsiderata, ecco, proveniente dalla serietà sconsiderata, è un bello simbolo per definire questa formazione. Anche qualche parola sulla musica che stiamo per ascoltare, ma prima di farlo diamo la linea alla regia. Ed ecco dunque che vorremmo sapere qualcosa di più sulla musica che stiamo per ascoltare, Pino Saulo. Ecco, sulla musica appunto, immaginate un po' una fanfara che predilige chissà poi perché certe sonorità quasi come si dice, balcaniche soprattutto, ma anche temi invece di altra derivazione, qualche cineseria, qualche cosa un po' orientaleggiante qui e là. Un cantante pazzo, questo l'avevo dimenticato, che corre in lungo e largo su tutto il palcoscenico urlando e cercando di coinvolgere il pubblico con improbabili canzoni sui pescatori giapponesi, e che a un certo punto intona vagamente anche O Sole Mio, prima appunto di lanciare We Are Fishermen, e come dice lui stesso, questo non è uno show, non è arte, c'è un po' di musica, ma questa è una festa, e in quel caso invitava il pubblico a alzarsi e a ballare. In tutto questo poi a un certo punto fa la sua comparsa anche un drago enorme che viene portato dapprima sul palcoscenico e poi fatto viaggiare in mezzo al pubblico. Va detto che in occasione del concerto di Torino, che è stato così coinvolgente, così divertente, anche la pioggia non ha fermato il pubblico, a un certo punto ha iniziato a piovere e neanche poco, e il pubblico è rimasto fermo al suo posto, qualcuno più codardamente come me è passato sotto i portici, però insomma poi abbiamo riguadagnato la piazza, perché la piazza San Carlo. Però in tutto questo la musica è anche serissima, nel senso che c'è veramente qualcosa che rimanda a un certo jazz orchestrale, c'è un suono d'insieme che è potente, che è bello, è sgangherato ma è fatto molto molto bene, c'è una cura del dettaglio addirittura quasi maniacale, però come succede sempre nelle situazioni migliori, tutto questo non si vede, cioè il primo impatto è quello di una forza di comunicazione straordinaria, di una forza espressiva altrettanto straordinaria, di un concerto estremamente divertente, estremamente godibile, che abbiamo tagliato arrivati a un po' meno di 2 ore, abbiamo detto no, era in realtà più o meno finito, poi sarebbero rientrati di lì a una decina di minuti dopo per fare un veloce bis, però insomma, quindi quello che mandiamo è veramente praticamente praticamente il concerto. Gli ingredienti di simpatia ci sono tutti, allora. Assolutamente. Io non so se possiamo anche citare i musicisti, insomma, ci beh, provo. Sì, arriviamo fino a domani, ma proviamo. Allora, Yoichiro Kita alla tromba, Han Sato al sax tenore, Masayo Koketsu al sax tenore, Yoshiyuki Kawaguchi al sax contralto, Hideki Tachibana al sax contralto, Akira Kito al sax baritono, Nobuhiro Nakane al trombone, Naoki Shimura alla tuba, Keisuke Ota al violino, Koichi Yamaguchi alle tastiere, Yun Isobe e Naoki Yamamoto alle batterie, Azusa Yamada al vibrafono, Akihiro Ishiwatari e Ippei Kato alla chitarra, Mariko Kobayashi al basso, poi le percussioni sono di Mari Sekine, Shinichi Watabe e l'MC, il Master of Ceremony, le danze di Shibuto appunto erano Yun Wakabayashi, Toyo Matsubara e Takako Asegawa, e poi è anche Yoshiro Shimomura e poi ancora altri danzatori e poi il direttore Yasuhiko Abeta, mi scuso ovviamente per la pronuncia, e poi appunto non ho citato tutti quanti gli altri che non si sentono veramente. Insomma, c'è del jazz, c'è un gusto per l'improvvisazione, c'è un gusto per lo sberleffo fatto però con grandissima serietà, c'è un grandissimo senso di divertimento, un'ora e 47 minuti di puro divertimento con la Shibusa Shirazu, che sembra significhi qualcosa come non essere mai cool, non essere mai fichi, diremmo noi direttamente. Stefano Zeni ha avuto l'occhio di invitare in esclusiva per l'Europa l'anno scorso Shibusa Shirazu, e noi abbiamo l'orecchio per ascoltare. Registrato a Piazza San Carlo a Torino il 31 maggio, e avrei voluto annunciare un'edizione importante. Recupero un attimo velocemente, perché c'è un'edizione invernale di Verona Jazz, è abbastanza importante perché ci sono alcuni appuntamenti, diamo almeno i primi due: VJ Ayer, un piano solo, un pianista che abbiamo ascoltato spesso qui a Radio 3 Suite, suonerà il 30 gennaio, e poi il 3 febbraio uno straordinario sassofonista, J.D. Allen, alla testa del suo trio. Ma adesso Shibusa Shirazu.